registriamo sempre le conferenze perché poi le scarichiamo sul nostro sito. Nella parte sinistra del nostro sito, dove ci sono i menu, podcasting, si possono scaricare o riascoltare da casa le nostre iniziative. Quindi, se per caso abbiamo un repertorio degli ultimi 8-9 anni, penso, quindi col ritmo di questa biblioteca rischiamo di intasare la rete internet. Esatto. Comunque, bene. Allora, un caloroso benvenuto a tutte le signore e signori e alle nostre due ospiti che vi presento. Allora, Stephanie Paul Michel è una giovane dottoressa che si è laureata e soprattutto in dicembre ha presentato la tesi di laurea in questa biblioteca partecipando al premio Claudia Augusta. E insieme ad altri 30 giovani studenti e studentesse sono stati premiati, la tesi è stata catalogata, è possibile consultarla presso questa biblioteca. In dicembre però, cioè da un po' di tempo per la verità, ci siamo detti che era un peccato così finire in bellezza con una festicciola e la catalogazione di una tesi e non invece valorizzare questo lavoro, farlo conoscere in maniera un po' più approfondita e soprattutto far capire, far vedere di che cosa si tratta, su che cosa si è lavorato. E già in gennaio abbiamo iniziato con questo percorso intitolato La ricerca in Alto Adige, quindi abbiamo pensato a una formula così un po' diversa. Allora abbiamo preso gli studenti che hanno deciso di accogliere questo nostro invito e poi scegliendo di volta in volta, in base al tema, un padrino o una madrina che accompagnasse questo, tra virgolette, debutto in questa biblioteca da parte dei giovani ricercatori, ricercatrici. E questa volta la scelta è caduta sulla dottoressa Patrizia Giangirolami, che ringrazio tantissimo e che grazie. Tutti conoscono. Quasi tutte. No, sei rinomata. Quasi. O famigerata, dipende. Ecco, che da tantissimi anni si prodiga per diffondere la cultura, l'amore per l'arte, per l'archeologia, si dedica in prima persona, con anche abnegazione direi, nel consorzio lavoratori studenti e in Archeo Art. Una parte consistente di questo lavoro, di anni e anni di ArchioArt, questa biblioteca lo ha ereditato, lo sta custodendo, lo sta valorizzando, lo stiamo usando, insomma, ecco, è un legame che si è saldato sempre di più anche con questa associazione e siamo contentissimi stasera di averti con noi. Grazie. E ci dai una mano in questa iniziativa ed è una spinta della metaforica, ecco, alla Stephanie che insomma ci porta una tesi che è un giallo, posso dire così, non entro nel merito, ma insomma è un po' un piccolo enigma, un giallo che ci disvelerà piano piano. E il titolo è appunto Un pittore cremonese a Bressanone, un affresco nel Museo Diocesano e il problema di Andrea Bembo. Ecco. Poi ne approfitto un attimo, come sempre, per tre appuntamenti nei prossimi giorni. Allora, il 14 avremo il Fogolar Furlan, che presenta un po' i fondi che ci hanno regalato a questa biblioteca. C'è un pomeriggio dove si parla delle attività del Fogolar Furlan attuale, perché oltretutto è stato presentato anche un dizionario ladino-italiano in questi giorni, quindi torna alla ribalta anche la discussione delle lingue. Ecco. Poi il 17 aprile, anche questa cartolina è sulle sedie, la presentazione Dalla liberazione alla ricostruzione in Alto Adige e Südtirol, con Giorgio Mezzalira, Carlo Romeo, Fabrizio Miori e Giovanni Perez. E infine martedì 15 aprile, ecco, alle 17.30 ci sarà la presentazione di Alto Adige e Südtirol, una guida curiosa, con Bruna Maria dal Lago Veneri. Ecco, così prima di Pasqua abbiamo un po' di iniziative. Vi ringrazio dell'attenzione, ringrazio voi soprattutto. Grazie. E buona serata. Grazie. Grazie. Non credo che serva questo, serve? Serve. Va bene. Serve. Momento, no. Dobbiamo lasciarlo attaccato perché poi. Allora, lasciamo. Facciamo così. Bene. Allora inizio io, ma non perché sono la più importante, perché stasera è sicuramente più importante Stephanie, anche perché ha fatto un lavoro secondo me splendido, e il fatto di volerlo presentare è già splendido in sé. Quindi io ringrazio prima di tutto Stefani e poi chi la viene ad ascoltare. Ho accettato di fare la madrina anche se la cosa non mi piace. Primo perché mette in risalto il divario generazionale in maniera brutale, e la qualcosa. È vero che io sono un archeologo, quindi più vecchio è uno e più mi piace. Più reperto archeologico è, e meglio è, e quindi ci siamo. E poi perché Stefani si occupa di una cosa che io amo, e cioè la storia dell'arte, e in particolare la medievalistica, e in particolare anche un'attenzione critica o comunque curiosa rispetto agli argomenti. Ecco, questi sono i motivi che mi hanno indotto a dire di sì a Stefani, e poi a dire di sì a Valeria, che io ringrazio logicamente insieme ai suoi collaboratori, anche perché questo legame a cui lei ha accennato tra la Biblioteca Archeoarte e Claudia Augusta sta cominciando a prendere piede dopo il primo anno in cui la biblioteca è stata impegnata nella, chiamiamola, catalogazione, ma comunque nell'inserimento dei libri all'interno della Claudia Augusta. Adesso si incomincia, secondo me, anche a convivere nella maniera giusta e anche a poter dare alla cittadinanza qualcosa di strutturato, che è sempre una bella cosa. Speriamo nel futuro polo bibliotecario di avere dei belli spazi per tutti quanti. Bene, detto questo, vorrei presentare un po' Stefani. Io non la conosco tantissimo, ho avuto occasione comunque di conoscerla. È una giovanissima ricercatrice, posso dire l'anno? Sì. C'ho una liberatoria comunque. È del 1987, lo voglio dire, perché secondo me va sottolineato come i giovani sono una grossa forza culturale che va non solo allevata, ma da cui dobbiamo anche imparare delle cose. E una delle cose, secondo me, che bisognerebbe imparare da gente come Stefani è quella di aver saputo, in un libro di questo genere, questa è la sua personale, l'altra è qua, è blu, non so perché, è blu. Di aver voluto dedicarsi ad un argomento che sicuramente non è popolare fra le giovani generazioni e che però lo potrebbe diventare, e cioè capire come, anche da un banale, scusa il termine, affresco, noi possiamo indagare quei rapporti di culture diverse che sono oggetto ancora oggi e spesso scontro ancora oggi tra, diciamo inutilmente secondo me, tra popoli, ma soprattutto tra idee diverse. Dire è un pittore cremonese, quindi un'area, chiamiamola lombarda, anche se magari ha anche altre connotazioni, a Bressanone, già è una bella cosa, no? Ma soprattutto quando nel Rinascimento. Ci sono tante componenti che ci portano a dire, guardate che siamo in presenza, forse, e quel punto di domanda non so se sia stato risolto, ma ce lo dirà Stefani, siamo in presenza forse di un incontro già in tempi non sospetti fra culture del nord, culture del centro, ma anche culture locali. Non è vero che non si può convivere, si può convivere benissimo, forse con qualche politico in meno, lasciatemelo passare, e però con tanta, come dire, rispetto della cultura che abbiamo accanto. Rispetto vuol dire conoscerlo, e Stefani dà un piccolo tassellino di questa conoscenza. Credo che questa sia, secondo me, poi dirà anche Stefani, la cosa importante. Perché è molto facile, se no, fare una conferenza sul Medioevo a Bressanone. È facile. È difficile perché bisogna studiare, ma è facile farlo. È difficile far comprendere anche ai non addetti ai lavori che l'arte, e in particolare questa arte nostra locale, ha già i segni di quello che dovremmo essere noi, cioè un esempio di convivenza culturale. Che poi uno parli una lingua 10, 20, 30, bene. Già Stefani è brava perché ne parla perfettamente 3, credo. due sicuro, e comunque conosce bene altre due, quindi un esempio anche su questo. Però non è solo la lingua veicolo importante, ma è la cultura e l'arte, in particolare l'arte musicale, l'arte visiva, l'arte che si sente con i sensi, non ha nessuna lingua da usare, ma soltanto l'espressione. E l'espressione, più la si conosce, più la si ama, e si ama chi l'ha fatta. Che poi sia tedesco, italiano, genovese o sudafricano, è irrilevante a quel punto. Ecco, e mi piace di dirlo ogni volta, e mi piace di dirlo alla presenza di un giovane, che forse è esempio di tutto questo. Quest'anno ricorre secondo me, un brutto anniversario, quello della Prima Guerra Mondiale. Io spero che, e io ho sempre questo dubbio, che gli anniversari di guerre significhino non farle più, non sia un'esaltazione. Nel 1914 c'è stata la guerra, sarebbe da dimenticare, no? E se la ricordiamo, bisogna ricordarla in un altro modo. Faccio presente che la guerra, la Prima Guerra Mondiale, ma tutte le guerre, hanno dato il via a un sacco di novità in campo artistico. Il futurismo, tanto per fare un nome, è questo. Allora prendiamo quei semi dalla guerra, li critichiamo, li buttiamo anche via, ma li conosciamo. E quindi grazie a Stefani, che ci racconterà chi è cremonese, tirolese, non lo sappiamo. 1987, il suo anno di nascita, e già nel 2013 era laureata con una laurea magistrale. Quindi vuol dire un percorso veloce anche, e laureata con 110 lode. Non, sì, a tutti i secchioni prendono 110, ma i secchioni si fermano e lei sta continuando. Quindi secondo me è una persona che sta usando quello che ha studiato, ne ha ancora da studiare, ma già ci sono i percorsi. So che è una persona un po' riservata anche, però secondo me va detto anche questo, già ha fatto esperienze professionali, è difficile farle insomma a questa età, sia nel campo delle visite guidate di arte, sia nella collaborazione con gli enti pubblici. Io qui mi sono permessa di consigliarle attenzione quando si fa la collaborazione con gli enti pubblici, a non farsi mangiare, ma a fare proposte. Ha fatto visite ai musei, visite guidate ai musei in entrambe le lingue, e secondo me questo l'ha portata anche già a capire cos'è un piccolo percorso di insegnamento, e quindi di capacità di dire agli altri le cose. Non è facile trovare una ragazza del 1987 tutto questo, e questo mi piace, e credo che Brunetta qui dovrebbe dire che non sono tutti dei mammoni i ragazzi che noi abbiamo. Poi magari, se vuole bene alla mamma, credo che sia un punto a favore, però le cose possono andare diversamente. E ha fatto anche un tirocinio presso il liceo pedagogico Pascoli di Bolzano, e quindi questa l'ha messa anche in contatto con queste capacità di relazionarsi anche a livello di compagni didattici eccetera, e comunque ha fatto anche qualcosa che non c'entra con l'arte, ma secondo me che denota che uno è capace di darsi da fare. È diventata collaboratrice al Cineplex di Bolzano. Lei dice che non c'entra niente, io sostengo come mai proprio il cinema, che la settima arte, insomma, quindi di nuovo ritorniamo lì. Non, sono sempre scelte un po' guidate da quello che è l'amore. Poi chiudo dicendo una cosa che secondo me è bellissima: quando io le ho chiesto, ma scusa, perché uno prende un affresco di tutta una roba che c'è nel Duomo, nel chiostro del Duomo di Bressanone, perché questa, poi ce lo dirà, ma comunque perché io amo, ha usato questa parola, l'arte, e già da piccolina facevo la collezione di figurine, di queste cose sull'arte. Ecco, riconoscere fin dall'inizio un amore, una passione per qualcosa porta sempre a dei buoni frutti. E quindi io ringrazio Stefani per questa sua tesi, può, se viene discussa, nel senso, vuol dire che ha generato anche una novità e una cosa importante. Non rubo altro tempo, la dottoressa Stefani Paunichl ci racconterà la sua tesi e poi lasciamo lo spazio a qualche domanda. Io le ho chiesto, non so se ha colto questa mia, di essere capace di suscitare le domande. Quando si fa i relatori, si fa una relazione così e si dice tutti a casa, oppure si buttano là delle cose per cui uno si chiede: cosa mi stai dicendo? Ecco, vediamo. Grazie Stefani, intanto ti lascio sola il pubblico. Allora, la tesi dal titolo Un pittore cremonese a Bressanone, un affresco nel Museo Diocesano e il problema di Andrea Bimbo presenta uno studio e una ricerca su un unico affresco, appunto, che raffigura la Madonna con il bambino, Santa Caterina e un offerente. L'opera è cinta da un'inconsueta cornice polilobata e in realtà effettivamente quest'opera è stata strappata attorno alla metà del secolo precedente, quindi attorno alla metà del Novecento, proprio dal chiostro del Duomo di Bressanone. Oggi quest'opera si trova nell'attinente Museo Diocesano. Al centro dell'opera, sicuramente come protagonista, è raffigurata la Madonna, che stringe tra le proprie braccia il piccolo Cristo infante, che quasi in contorsione, in effetti, si muove verso quella figura di cui oggi vediamo soltanto una sagoma. Accanto a questa figura inginocchiata potete vedere sulla sinistra un oggetto un po' strano, un po' particolare, e si tratta in effetti del suo stemma. Accanto a questa figura vediamo poi un altro personaggio, un personaggio raffigurato in piedi e di cui oggi, veramente per questo pessimo stato conservativo dell'opera, si intuisce veramente poco. Si tratta in effetti di Santa Caterina, e che questa figura è identificabile proprio come Santa Caterina è da ricondurre a un unico elemento, che è il suo attributo iconografico tipico, e quindi la ruota che si riesce a intravedere proprio nella sezione inferiore dell'opera. Quindi vediamo in effetti che il vero punto di partenza, di avvio di questa ricerca, viene però costituito da un'iscrizione. Questa iscrizione potete vederla proprio in cima all'opera, all'interno, diciamo, di un cartello, ed è qui raffigurata in una fotografia che è stata scattata verso gli anni 50 del Novecento da Nicolo Rasmo. Questa iscrizione in origine era disposta su 6 righe, ma come si può vedere in maniera chiara e evidente, effettivamente oggi l'iscrizione è disposta soltanto su 3 righe. Sono delle lettere strane, effettivamente. Si tratta della scrittura gotica che allora veniva utilizzata. E quindi oggi in realtà, se ci troviamo davanti a questo affresco, per noi è molto difficile capire cosa c'è scritto. Leggiamo dei lacerti di parole e sappiamo in effetti che queste parole in origine dovevano appartenere a un testo che era molto più esteso, e fortunatamente in effetti durante la ricerca di questa tesi è stato trovato un testo che riproponeva proprio il contenuto di questa iscrizione. Questo testo è stato copiato appunto nel 1765 da uno storico di nome Joseph Resch. Lui infatti copia questa iscrizione, la pubblica nel 1765 all'interno di un'opera che si chiama Monumenta Veteris Ecclesiae Brixinensis. Effettivamente questa iscrizione è in latino, e quindi diciamo che proprio in questo momento era ovviamente anche, diciamo, necessario utilizzare proprio la lingua latina per comprendere cosa c'era scritto all'interno di questo testo. Dunque questo testo recita che questo affresco strano, polilobato, di cui oggi rimane veramente poco, è stato dipinto nel 1429 da un pittore di nome Andreas de Bembis, proveniente dalla località Friend. Effettivamente è stato dipinto in occasione di un momento importante, e quindi del momento in cui il dottor egregius Johannes de Cervit, il quale appunto proveniva da Colonia in Germania, e viene designato anche con l'appellativo Rector, è stato sepolto. Egli è morto però nel 1426, come dice l'iscrizione. E quindi sappiamo in effetti che Johannes de Cervit è morto a 3 anni di distanza dell'esecuzione dell'affresco, e quindi 3 anni prima Johannes de Cervit è morto e successivamente è stato realizzato questo affresco. Quindi il vero punto di partenza viene costituito, il vero punto di partenza di questa ricerca viene dunque costituito da quest'iscrizione. E quindi diciamo che la tesi da prima cerca di ricontestualizzare l'affresco all'interno del suo contesto originario, quindi nel chiostro del Duomo di Bressanone. Effettivamente chi è stato nel chiostro del Duomo di Bressanone sa benissimo che è un ambiente che è riccamente affrescato, è uno dei gioielli che abbiamo qui in Alto Adige, che diciamo ripropone opere d'arte di momenti diversi e che sono stati realizzati soprattutto nel periodo del 400. Quindi l'affresco che è stato strappato verso la metà del secolo precedente in origine doveva trovarsi sulla parete est del chiostro. Quindi considerando diciamo, la collocazione originaria dell'affresco, emerge effettivamente che il chiostro in realtà inizialmente è stato utilizzato soprattutto come luogo di sepoltura per i membri del clero, e questo diciamo, è quasi come un puzzle, mettendo insieme i due tasselli diciamo, si unisce perfettamente. Johannes de Cervit è stato quindi sepolto in un luogo che era diciamo utilizzato, che veniva proprio utilizzato come luogo di sepoltura per i membri del clero. Inoltre poi è importante che questo chiostro si estende sul lato meridionale del Duomo barocco del Duomo barocco di Bressanone, ed in effetti numerose erano anche le processioni che attraversavano il chiostro, e proprio in queste occasioni, quando le processioni religiose dalla chiesa, dal Duomo barocco uscivano, attraversavano il chiostro, e la parete est della tredicesima campata, che si vede proprio su quest'immagine, doveva essere la parete principale che i membri del clero e i partecipanti a queste processioni dovevano vedere. Inoltre un elemento molto importante è che questa sezione della parete, in cui poi venne affrescato l'affresco oggetto di questa tesi nel 1429, in realtà era già stata dipinta precedentemente, e quindi con un tondo in memoria di Konrad Schaller, che potete vedere proprio qui al centro. Effettivamente poi nel 1429 è stato ricoperto dall'affresco oggetto di questa tesi, e in questa occasione poi il tondo che ricorda invece la morte di Konrad Schaller è stato ricopiato sotto il peduccio che divide la tredicesima dalla quattordicesima campata. Tuttavia però va anche notato un altro elemento che è molto importante. Questo elemento è appunto il fatto che il nostro affresco, essendo messo diciamo in confronto con tutti gli altri affreschi del chiostro, si presenta come stilisticamente isolato, quindi in realtà singolare, mentre sappiamo infatti che Jacob Sunter, la bottega di Leonardo da Bressanone, hanno lavorato sicuramente nel chiostro. Comunque è importante che questo affresco non aderisce assolutamente a quello stile, a questo stile che noi diciamo riconosciamo proprio nell'arte altoatesina. Quindi, avendo contestualizzato dapprima l'affresco all'interno del suo contesto originale e considerando anche il davvero pessimo stato conservativo dell'opera, è stato particolarmente importante recuperare anche delle fotografie storiche dell'affresco. Queste fotografie sono state recuperate presso vari archivi, quindi c'è stata proprio la ricerca in archivio, come ad esempio la ricerca d'archivio ad esempio a Bressanone, la ricerca d'archivio presso la ripartizione dei beni culturali della provincia autonoma di Bolzano, e dall'altro lato molto importante è stata proprio la ricerca presso la Fondazione Erasmo Zallinger di Bolzano, perché Nicolò Erasmo, questo studioso e storico dell'arte molto importante, a sua volta proprio negli anni 50 appunto del secolo precedente, quindi prima dello stacco dell'opera, aveva scattato alcune fotografie che noi oggi possiamo appunto consultare e notare proprio da queste fotografie che l'affresco allora era sicuramente in uno stato conservativo migliore di quello attuale. Dall'altro canto, comunque, è molto importante anche ripercorrere quella che può essere descritta come la fortuna critica dell'affresco, che vuol dire effettivamente tutto quello che gli storici dell'arte che si sono arrovellati sull'argomento in precedenza hanno detto a tal proposito. Quindi vediamo appunto che gli storici dell'arte, già a partire dalla metà dell'Ottocento, diciamo, si interessano a questo affresco. E a metà dell'Ottocento loro conoscono benissimo anche quella che è l'iscrizione trascritta dal Resch. E tuttavia succede una cosa molto particolare. La collegano ad un altro affresco, un affresco che si trova nella quindicesima campata. Lascia un po' perplessi questa cosa, ma diciamo che in realtà può essere spiegata. Questa iscrizione in realtà è stata collegata a questo affresco, nella quindicesima campata appunto, perché diciamo... Attorno alla metà del Settecento avviene la ricostruzione barocca del Duomo di Bressanone. Il Duomo di Bressanone era una costruzione medievale e, come era usuale nel barocco, diciamo, c'era questa idea di rinnovare, di cambiare. E quindi le lastre funerarie che si trovavano nella costruzione medievale venivano semplicemente poste, depositate nel chiostro, sono state addossate proprio sulle pareti del chiostro, impedendo in questo modo di vedere gli affreschi sottostanti. E anche se questa soluzione in realtà sembrava dovesse essere, diciamo, una soluzione temporaneamente limitata, in realtà queste lastre funerarie sono rimaste proprio sulle pareti per 100 anni, fino alla metà dell'Ottocento, e quindi nessuno aveva mai visto quelli che erano gli affreschi sottostanti. Inoltre, un altro motivo per il quale avviene questo fraintendimento è proprio quello che effettivamente il Resch, quando aveva trascritto l'iscrizione, non aveva esplicitamente indicato da dove aveva tratto questa iscrizione. E questo avvenne effettivamente perché al tempo del Resch, quindi alla metà del Settecento, non si parla ancora della tredicesima campata come lo facciamo oggi. Lui parlava semplicemente del lato orientale del chiostro, non indicando esplicitamente la campata, perché la campata è stata introdotta solo attraverso questa numerazione di Tinkhauser a metà dell'Ottocento e quindi successiva. Quindi avviene che solo nel 1894 uno studioso di nome Walchecker riesce a riconoscere la paternità tra l'iscrizione del Resch da un lato e il nostro affresco. Quindi per la prima volta, solo nella fine dell'Ottocento, i due elementi vengono collegati. Tuttavia, comunque, ancora all'inizio del Novecento, appunto, nel Time Becker, che è un'enciclopedia appunto che si occupa di tutti i nomi di artisti, sotto la voce Andrea Bembo si vede che viene compiuto un errore. Un errore perché il Vollmer appunto pensa che l'iscrizione si riferisca ad un altro affresco ancora, anche questo nella quindicesima campata, e rappresentante però il responso della Sibilla Tiburtina davanti ad Augusto. Quindi di nuovo è stato, diciamo, posto un fraintendimento. Inoltre il Vollmer per primo propose un'errata lettura dell'iscrizione, perché effettivamente nell'iscrizione il nostro pittore viene indicato come Andreas de Bembis, proveniente dalla sconosciuta località Friend, e il Vollmer, conoscendo bene l'Alto Adige, ha pensato che magari il Resch avrebbe frainteso l'iscrizione leggendo la parola Frena, che sarebbe, diciamo, una piccola frazione di San Vigilio di Marebbe, al posto di Friend. Quindi, secondo il Vollmer, il nostro pittore in realtà sarebbe proveniente dall'Alto Adige. A modificare, a cambiare, a rivalutare tutta la situazione è poi stata la grandiosa figura di Nicolò Rasmo. Nicolò Rasmo, il quale, diciamo, si è arrovellato sull'argomento a partire dal 1939, facendo poi successivamente vari contributi proprio sullo studio di questo affresco. Nicolò Rasmo, infatti, per primo propose di identificare il pittore dell'affresco bressinese con un omonimo e contemporaneo pittore che in realtà proviene da Cremona. Nicolò Rasmo sapeva in effetti che in Lombardia, a Cremona, c'era un pittore che si chiamava Andrea Bembo, e si tratta di un pittore che in realtà è stato dimenticato per secoli e che solo proprio in quegli anni è stato rivalutato. Esatto. Nicola Rasmo quindi per primo, diciamo, propone di identificare l'autore del nostro affresco con il contemporaneo e omonimo pittore cremonese. Diciamo che questo contributo è stato di fondamentale importanza perché effettivamente nel secondo capitolo della tesi si è poi cercato di indagare, di individuare chi è questo pittore cremonese. Dimenticato per secoli effettivamente, solo nel 1935 questo studioso di nome Guido Lonati ha ritrovato un documento, si tratta dell'unico documento, un atto notarile appunto, che attesta a Brescia questo pittore cremonese come Andrea Bembo. In effetti la famiglia dei Bembo sono di origine cremonese e poi abitano a Brescia e quindi oltre a aver individuato il primo documento che parla di questo Andrea Bembo e lo menziona proprio con tale nome, egli era riuscito anche ad identificarlo con un pittore di nome che veniva chiamato nei documenti Andrea da Cremona. E quindi in realtà Andrea da Cremona risulta essere documentato a Brescia già nel 1419 e dopo una lacuna documentaria che comprende all'incirca 10 anni viene documentato in città, sempre a Brescia appunto, di nuovo nel 1431. Nel 1431 a Brescia viene documentato come un pittore molto utile, anzi necessario per la città, alla quale gli viene conferita la cittadinanza solo a condizione di rimanervi e di lavorare in questa città. Inoltre però questo documento ci dice una cosa molto importante, che è quella che Andrea era in città solo da un anno e quindi abbiamo una lacuna documentaria che comprende veramente questo decennio tra il 1419 e il 1431. Successivamente vediamo che questo pittore è documentato continuamente a Brescia fino al 1459, quando Andrea viene documentato per l'ultima volta nell'estimo bresciano. Quindi è importante che la figura di Andrea deve essere contestualizzata proprio all'interno della bottega dei Bembo, la quale è una bottega molto molto importante in Lombardia e alla quale faceva capostipite proprio Giovanni Bembo, e Andrea era il fratello dei ben più noti pittori Bonifacio e Benedetto Bembo, i quali diciamo hanno lavorato soprattutto a Cremona e in tutta l'area lombarda. Quindi diciamo che nel secondo capitolo di questa tesi si è cercato anche di fare un corpus delle opere che sono state assegnate ad Andrea Bembo. Facendo quindi dei viaggi e dei sopralluoghi a Brescia è stato in effetti possibile anche studiare gli affreschi dal vivo, facendo dei sopralluoghi nelle chiese, ed in effetti è stato rilevato che i documenti citano delle opere che sono state dipinte da Andrea Bembo e quindi delle opere che sono documentate da un lato o firmate dall'altra, ma che purtroppo fino a oggi non sono giunte. Questo vuol dire in effetti che attraverso i secoli sono andate perdute e che quindi oggi non c'è nessuna opera certa di Andrea Bembo. Non c'è nessuna opera certa, ma tuttavia dopo l'intervento del Lonati nel 1935 numerosi studiosi hanno pensato di attribuire delle opere ad Andrea Bembo, sempre rifacendosi comunque a quello che poteva essere lo stile di Bonifacio, di Benedetto e quindi diciamo in generale quello che poteva essere lo stile dei Bembo. Così si è cercato in effetti di fare un corpus di opere che sono stilisticamente omogenee e che hanno quindi queste caratteristiche come le possiamo vedere in quest'opera. Una cosa molto interessante è che queste figure hanno appunto questi visi imbambolati, queste fronti altissime, gli occhi scurissime, sono appunto delle figure graziosissime come è tipico appunto del gotico internazionale e come lo si vede appunto in questa rappresentazione dove al centro è raffigurata la Madonna con il bambino affiancata da Sant'Anna e ai lati si trovano due sante identificabili con Santa Caterina e Santa Apollonia. Questo affresco si trova appunto nella chiesa di San Francesco a Brescia ed è esemplare per le numerose opere che sono state attribuite, diciamo, ad Andrea Bembo. E facendo proprio un confronto tra un particolare della Madonna, appunto, brissinese, con un particolare della Madonna che si è trovata appunto a Brescia, è stato possibile trovare che effettivamente non c'è molta compatibilità stilistica. Da un lato si vedono i lineamenti molto più duri, dall'altro lato invece ci sono questi visi imbambolati e graziosissimi che assolutamente non presentano alcuna familiarità con l'affresco brissinese. Se quindi è vero effettivamente che non è stata, diciamo, trovata alcuna affinità stilistica fra le due opere, è comunque vero che è stato riscontrato un errore di lettura nell'iscrizione che è stata trascritta dal Resch. Effettivamente, guardando la parte dello stemma, che si trova infatti sul lato sinistro dell'offerente indicato nell'iscrizione come Johannes de Cervit, è stato possibile proprio attraverso la ricerca di fotografie storiche individuare che l'animale che doveva essere raffigurato sul cimiero che sormonta lo stemma in origine era un cervo. E pensando un po' anche a quello che poteva essere la lingua latina, quindi le finali consuete, diciamo, nella lingua latina, era un po' strano che una figura si chiamasse De Cervit. In questo senso quindi si è ragionato e si è pensato infatti proprio di andare a cercare quelle che potevano essere le fonti documentarie. Sono state quindi consultate fonti documentarie ottocentesche del Settecento per trovare infine una lettera. Si tratta di una lettera che è stata stilata nel 1411 dal vescovo Ulrico da Vienna e nella quale si parla di un certo Johannes de Cervo. Effettivamente il nome di Johannes de Cervo veniva spesso anche indicato come Johannes de Cervit e quindi in realtà era la stessa persona. Così si è trovato in effetti che questa persona si chiamava Johannes de Cervo, il quale sembrava anche abbastanza strano, pensando in effetti che il personaggio doveva provenire da Colonia. Quindi cercando, proprio tra le famiglie nobili di Colonia, è stata individuata una famiglia di nome Hirtz o van Hirtz o van Mehirtz, che in realtà in tedesco attuale sarebbe Hirsch, e che si facevano chiamare proprio con il cognome latinizzato e anche un po' più chic De Cervo. E quindi l'appartenenza del nostro offerente proprio a questa nucleo familiare molto importante a Colonia può essere accertata proprio attraverso il confronto dello stemma sull'affresco brissinese che è qui sulla sinistra raffigurato in una fotografia storica e un particolare di un'opera dipinta dal cosiddetto Meister des Marienlebens, un'opera che oggi si trova alla Alte Pinakothek di Monaco di Baviera e dove vediamo infatti lo stemma sempre suddiviso a strisce orizzontali con il cervo nella sezione del cimiero. E quindi questa è una cosa molto interessante perché effettivamente ci mostra anche quella che doveva essere il cromatismo, quindi i colori originali di questa sezione che oggi per il pessimo stato conservativo non si vede più. Effettivamente lo stesso stemma degli Van Hirtz compare poi anche sulla cappella degli Van Hirtz a Santa Maria in Campidoglio, sempre a Colonia. L'appartenenza quindi di Johannes de Cervo a questo nucleo familiare molto importante in Germania poteva essere accertato quindi sia dalle fonti documentarie da un lato che attraverso il confronto delle fotografie storiche in cui compare lo stemma e diciamo lo stemma che è stato rappresentato diciamo in occasioni diverse. Se è vero che oggi diciamo il nome di Johannes de Cervo ci sembra in realtà essere un nome abbastanza sconosciuto, a suo tempo comunque non era sicuramente un personaggio poco noto. Dalla ricerca condotta è stato possibile individuare tutte quelle che erano le tappe biografiche di Johannes de Cervo. Quindi lo vediamo per la prima volta immatricolato all'Università di Colonia nel 1389, quando appunto si era iscritto proprio presso la facoltà di diritto. Successivamente le sue tappe biografiche lo portano in Italia presso l'Università di Padova, dove quasi facendo una sorta di Erasmus, diciamo, è documentato tra il 1399 e il 1400. Successivamente, comunque, vediamo che Johannes de Cervo già nel 1403 è di nuovo a Colonia, dove è documentato proprio in veste di rettore. Ed ecco che proprio questo elemento può spiegarci il termine rector nell'iscrizione, quindi l'appellativo che gli è stato assegnato. Da allora in poi, comunque, lui era docente di diritto presso l'Università di Colonia e nel 1407 lo vediamo per la prima volta documentato a Bressanone. A partire dal 1407 fino al 1411 la sua presenza a Bressanone effettivamente è altalenante e quindi nel 1411 è stata trovata proprio una lettera datata al 1411 nel quale il vescovo Ulrico da Vienna gli toglie il canonicato e le prebende proprio perché si tratta di una persona che si muoveva troppo e che in realtà non andava ben incontro a quelle che potevano essere le esigenze richieste dal suo incarico. Quindi nuovamente Johannes de Cervi torna in Germania a Colonia, dove insegna all'università e ci sono appunto proprio questi documenti che dicono anche che viene descritto dai suoi studenti come un maestro molto bravo ma un po' pigro e successivamente diciamo che accanto a questo suo incarico lui comunque anche fa parte di quello che è il consiglio della città. Così in effetti è anche presente al Concilio di Costanza, un'occasione molto importante per poter relazionare quelli che possono essere dei rapporti internazionali. E da qui si è partiti proprio per organizzare anche un corpus di opere che sono state stilate da Johannes de Cervo. Johannes de Cervo, quindi esistono i suoi documenti, lettere da lui stilate presso l'Università di Basilea in Francia, esistono ad esempio dei suoi documenti, lettere elaborati di diritto presso l'Ambrosiana di Milano, ci sono alcuni documenti stilati dalla sua mano a Firenze e quindi diciamo che si tratta anche di una persona che aveva dei rapporti internazionali molto elevati. Dall'altro lato comunque, anche se Johannes de Cervo era una persona che aveva comunque degli incarichi molto importanti nella città, non era sicuramente una persona ricca. Questo può essere attestato proprio dal fatto che lui doveva alla città di Colonia 200 fiorini che doveva saldare continuamente. L'ultima sua attestazione risale poi al 1426, anno in cui Johannes de Cervo è documentato a Bacharach. In questa occasione lui è coinvolto proprio all'interno di una perizia che riguardava il valore del vino con altri eruditi. E in questa occasione il parroco di questa località, che si chiama appunto Bacharach, fatto una miniatura di Johannes de Cervo, una miniatura che ancora oggi si trova all'archivio segreto della Baviera. L'ultima tappa quindi è il nostro affresco e quindi sappiamo, non sappiamo come e per quale motivo, ma sappiamo sicuramente che poi Johannes de Cervo è stato sepolto a Bressanone. Se è quindi vero che da un lato il pittore dell'affresco bressinese durante la ricerca di questa tesi non è stato possibile individuare se fosse identificabile con il pittore cremonese Andrea Bembo o no, sia perché non ci sono alcuni documenti che attestino la presenza del pittore cremonese in area altoatesina, che diciamo per la non affinità stilistica tra l'opera bressinese e quelle diciamo che si trovano sul territorio cremonese, è stato comunque possibile aprire quello che fanno in realtà gli storici dell'arte, unire vari tasselli per ricostruire le storie e quindi in questa occasione è stato sicuramente possibile emergere e dare maggiore importanza proprio a questo personaggio il quale fino adesso è stato sempre dimenticato, è rimasto all'oblio. Cosa diciamo, Stefani? Credo al di là della bravura di esposizione che sicuramente artisticamente merita, direi anche la puntualità delle fonti di riferimento sia antiche e sia contemporanee E infatti questa è una tesi dove c'è una buona bibliografia. Voi sapete che ormai nelle tesi si tende a fare copia e incolla delle biografie, e questo genera delle volte delle biografie un po' stantie, un po' standardizzate. Qui invece abbiamo un lavoro di documentazione grossa, anche su manoscritti oltretutto, oltre che di indagini bibliografiche, no? Quindi questo prelude sicuramente a un grosso lavoro. In quel punto di domanda credo che non sia risolto. No. Bene, vuol dire allora che bisogna studiare ancora, ma non è solo Stefani che lo deve fare, lo dobbiamo fare tutti. Anche perché avere un personaggio in casa del 1429, difficilmente nella storia dell'arte locale quel periodo produce delle cose che non siano un po' tarde, attardate sui moduli gotici o goticizzanti, e il nostro Rinascimento è sempre mal documentato, mal anche studiato forse, e anche perché in effetti grosse cose non sono state fatte. Quindi avere qualcuno che nel 1400 viene da Brescia non è il massimo forse dell'illuminismo, non è forse il massimo, ma comunque è in contatto con i grandi centri rinascimentali. Quindi una delle domande che vorrei fare io a Stefani è proprio questa, no? Visto che non si riconoscono moduli stilistici fra l'Andrea Bembo già documentato nell'area lombarda rispetto all'affresco di Bressanone, quindi stilisticamente siamo lontani, come possiamo collocare un professore universitario così, più che pigro io direi, ladro di uno stipendio mal meritato, che viaggia tanto, che quindi conosce tanto probabilmente, fare perizie sul vino forse oggi non è così importante, allora lo era moltissimo, il mondo ecclesiastico ha il vino come primo business economico da sempre, soprattutto nel 1400. Quindi mi chiedo e chiedo a Stefani questo rapporto fra Rinascimento e Gotico come si vede all'interno dell'affresco di Bressanone, là dove sono i punti del nostro Rinascimento e del nostro Gotico sostanzialmente. Ma io direi che quest'opera in realtà è un'opera, allora adesso ve la faccio, anche se vi faccio vedere la fotografia di Nicola Rasmo dove si vede appunto molto meglio, perché appunto diciamo qui l'affresco si trova ancora sulla parete est e effettivamente diciamo ci sono molti elementi che in realtà sono tipici anche del gotico, ha queste caratteristiche, il gotico internazionale diciamo ha queste caratteristiche dei panneggi molto morbidi, i panneggi dove in realtà non si intravedono le membra cioè la fisionomia sottostante, e effettivamente questo lo si vede ad esempio soprattutto guardando l'immagine, l'effigie della Vergine, dove appunto ad esempio si vede questo panneggio a grande goccia, oppure anche nella sezione inferiore del suo vestito dove praticamente ci sono questi elementi, cioè questo panneggio, il drappeggio che è tipo quasi come se fossero dei soffici strati di panna, e diciamo in realtà è molto minuzioso anche perché in origine l'opera sullo sfondo in realtà doveva rappresentare uno sfondo naturalistico en plein air, e quindi uno sfondo che in realtà doveva raffigurare diciamo il prato, un cielo aperto. E particolarmente interessanti sono poi anche i girali che si vedono soprattutto sul trono della Vergine, che è anche un elemento che ci ricorda molto quelle che sono le miniature lombarde di quegli anni. Inoltre però è particolarmente interessante, appartenente invece a quello che può essere il mondo tedesco, questo viene ritenuto e avvalorato soprattutto appunto dagli storici dell'arte lombardi, è l'elemento che la Vergine tiene è incoronata appunto. La corona così grande è un tipico elemento che si può infatti ricondurre alla pittura nordica, mentre invece se si osserva la Madonna lombarda si vede proprio che questo elemento, diciamo, è assente, mancante. Sì, credo che questo illustri bene, e forse c'è una cosettina nel... Prova a far vedere l'immagine di Erasmo. Questa? Sì, scusate. Io se non le vedo non... Anche ma ad esempio se uno non vede l'arte è inutile che la ne parli. Ma c'è qui una cosa che lei ha detto, Stefani ha detto bene. Qui c'è la panna montata. Qui il vuoto. E in mezzo a questo vuoto un dito, no? Un dito di un bambino che sta indicando probabilmente Santa Caterina, ma forse anche l'offerente, il nostro capriolo al forno lì, insomma, il nostro decervo. E quindi qui è il Rinascimento, qui è il Gotico e qui è il Rinascimento di sicuro, questo andare in avanti e cercare il dialogo. Il gotico non fa queste cose. Il gotico avrebbe tirato indietro un bambino che si butta verso la mamma, già la mamma guarda noi e non gli altri, però è qui veramente che forse noi possiamo dire in Alto Adige abbiamo anche del Rinascimento. È sempre un punto di domanda, no? Quindi, come dice Stefani, sicuramente questo, la panna montata e la corona della Madonna sono sicuramente invece della nostra grande tradizione tedesca, quello. Quindi un ottimo esempio, ma è qui. Qui bisognerebbe studiare tanto gli strati anche. Bene, detto questo, quali domande vogliamo fare a Stefani? Domande facili ma anche difficili. Ma io vorrei sapere quanto tempo ha dedicato per tutto questo lavoro di ricerca, perché mi sembra quasi un lavoro di anatomia forense, cioè sì, è vero, veramente impegnativo. Capillare. Ci ha messo più o meno un anno, sì. Ha fatto un anno di ricerca, però è stato un anno molto intenso, nel senso che ha fatto ricerca sia in Alto Adige, quindi anche facendo dei sopralluoghi proprio in tutta l'area altoatesina, da parlare da Frena ad esempio a San Vigilio di Marebbe. Com'è perché... Frena? Che non c'entra col nostro Frena, però. No. Frena è una piccola frazione di San Vigilio di Marebbe ed è effettivamente una piccola frazione composta da pochi masi molto ricchi. Diciamo. E cosa hanno detto questi? Praticamente è stato, diciamo, non simpatico. Sì, è stato è stata un'esperienza simpatica, sì, esatto. E poi sono state svolte comunque anche numerose ricerche, ho trascorso periodi anche a Brescia facendo proprio delle ricerche in biblioteca alla Corignana, facendo dei sopralluoghi nelle chiese del Bresciano, e quindi proprio per poter vedere, perché quando si studiano le opere d'arte la cosa più importante è vederle proprio con i propri occhi, e quindi andando a vederli proprio nei vari luoghi per poterli poi confrontare con l'affresco di Bressanone, diciamo. No, no? Sì, sì, anche poco, ho fatto così anche poco, onestamente. E negli archivi diocesani di Bressanone non è annotata la figura di questo pittore? Sì. Perché normalmente sono presentati del pittore, no, sì? No, del pittore. È stabilito quanto ricevono, non sì, solo certo. In denaro, ma anche in vettovaglie, in legname, bla bla. Esattamente, però a Bressanone non c'è alcuna traccia che parla di un pittore di nome Andrea. Perché la chiesa dovrebbe essere documentata la sua presenza, no? Sì, in cosiddetti archivi. Sì, appunto, però questa ovviamente è stata anche la prima traccia di ricerca, la quale però non diciamo non ha trovato nulla, non è documentato, presenza. No, infatti è un argomento sul quale si arrovellano tutt'oggi storici dell'arte tedeschi, italiani, provenienti sia dal nord, quindi anche dalla Germania, ma anche storici dell'arte italiani, bresciani, lombardi, eccetera, quindi in realtà è un argomento che viene trattato molto, proprio quello di Andrea Bembo, perché se questa effettivamente fosse un'opera di Andrea Bembo, del pittore cremonese, sarebbe l'unica sua opera, certa e quindi documentata che sarebbe sua, però in realtà non potendo fare dei confronti con altre opere certe non si può assolutamente dire che questa è la sua opera, diciamo, quindi è un argomento molto interessante. O era pagato in nero, sai com'è, sfuggono le tracce. E gli altri che hanno lavorato, gli altri pittori che hanno lavorato a Frescato, al chiosco di Leonardo da Pessanone, sì, risultano negli archivi? Ma penso proprio di sì. Adesso io non per stabilire, devo dire che io in quel momento mi sono limitata proprio a questa ricerca. Per stabilire un parallelo. Sì, esatto, però Leonardo da Bressanone in realtà si sa che la bottega di Leonardo da Bressanone ha lavorato sempre nel chiostro dell'uomo, sì, di Bressanone, certo, per motivi stilistici, però anche lì le uniche firme che ci sono Andreas de Bembis e Jacob Sunter, che si pensa appunto Leonardo, che fosse identificabile con Leonardo. Rimane l'interrogativo. Sì, rimane. Rimane, sì. Ecco. Qualcuno ha qualche... Come mai hanno spostato l'affresco? Ma l'affresco è stato strappato per motivi conservativi negli anni 50 del secolo precedente, diciamo. Non si sa neanche esattamente quale data, però sembra che sia il 1959, anche se Erasmo appunto indica il 1961. È stato strappato e poi trasportato su tela da Andreani. Ecco. E cosa c'è adesso al posto di lui? Adesso al posto suo si vede questo tondo. Ecco, così vediamo pure quello sotto. Sì. Mm. Esatto, oggi la parete si vede in questo modo qua. Era già stata affrescata prima. Sì, è stata affrescata prima con questo tondo appunto nel 1410, che poi è stato ricopiato sotto il peduccio. Sì, si vede, ce ne appunto sono due. Uno è precedente e l'altro più sbiaditino. Sì. Insomma, così. Sono le abilità fotografiche. Una domanda forse provocatoria, no? Sì. Non è che un pittore vada, diciamo, a Bressanone senza prima, per esempio, passare per Trento? Questa è una cosa molto interessante che lei dice, perché probabilmente lei ha fatto qualche ricerca lì, sì? Non so, a proposito del Buon Consiglio oppure del Duomo di Trento oppure, sì, non so. Allora a Trento effettivamente oppure addirittura anche Rovereto, no? E allora era il periodo un po'. Allora agli anni 30 del Novecento risale effettivamente un documento che parla di un certo pittore di nome Andrea, il quale sarebbe documentato a Trento nel luglio del 29, quindi nello stesso anno, un mese prima. Tuttavia, comunque, in realtà non si sa benissimo chi è questo Andrea, perché non viene indicato esplicitamente nessun cognome, cioè viene parlato semplicemente di un pittore di nome Andrea documentato a Trento. Altro a tal proposito non è rivenuto alla luce, diciamo, però effettivamente a Trento a un anno di distanza è documentato. E io ho fatto qualche ricerca, per esempio, al Museo Diocesano di Trento. Al riguardo? Ho parlato con Monsignor Roger prima che morisse. No. Cito. No. Nulla. No. Comunque la tesi è dell'Università di Trento. Quindi la dottoressa ha studiato a Trento, si è laureata a Trento, il relatore è il professor Aldo Galli, non so se l'avete sentito nominare, quindi sicuramente è già passato sotto quel vaglio, sì, lì il problema trentino. Il problema, io credo, non è tanto le fonti, che bene, ma che non c'è nessuna opera di confronto, di confronto, sì, certo. Ma se a Cremona, a Brescia ci fosse anche 2 centimetri quadrati, uno potrebbe fare le analisi anche della malta, magari anche della tipologia di pigmenti che vengono usati, ma non c'è niente di certo. E è ben questo, non c'è l'analisi stilistica, non c'è. Voi dite, allora è ben lì che bisogna studiare, perché quando si sa tutto va bene, ok, ma qui bisognerebbe indagare e vedere se è vero, come dici tu, che quando si viene al nord, però lì vuol dire che si dà per scontato che viene dal sud o comunque dal centro e passa da Trento e viene su, e se invece questo veniva dalla Francia e veniva giù. Difficile con quei tempi. difficile lo dici e poi anche le strade, no? Io sono a Vico di Tom, ci sono ancora le opere dei veneziani, ma perché? Certo. Perché il pittore Celeberrimo lì era stato un momento ospite dei tombi allora, che aveva fatto una lunetta nella sacrestia, poi era stata anche questa nascosta, eccetera. Certo. E parlo con intraprendente, anche forse per storie. Sì, intraprendente in quel senso. Sai com'è? Nonesi e quant'altro. Questa cosa era proprio raro, credo, sì, era bravo, bravo chiamato, eccetera. Da bravo fiammazzo, certo. Sì, sì. Comunque è uno spunto, anche. Beh, ma è uno spunto comunque, no? Di chiedersi sempre da dove vengono. Non è che uno arrivi da nulla, no? Lì, soprattutto loro, tipo i Pascheni che avevano fatto certo. Tutto il giro dalla Valtellina in su, si erano fermati, Tarpinciolo, eccetera, certo. Eccetera, no? E poi finiti a Trento. E così, avendo sì, Baskenis a Trento non tanto, ma proprio di stanno nelle giudicarie, a loro gli piacciono le giudicarie, gli piacciono la ciuiga da mangiare e quant'altro, a Rendena, sì, comunque credo che sia interessante capire sempre i giri che sì, un pittore che possono poi provenendo da Brescia. Io penso questo, ma è veramente un pensiero così che fa tanta acqua. Quel chi è che l'ha commesso questo affresco? Secondo me non è la Chiesa, non è la Chiesa che fa questa tipologia di committenza, ma è un laico, magari vicino alla Chiesa, cose di questo genere, che quindi se lo paga anche l'affresco. O magari lui stesso, ma se già aveva debiti sto qua, se ho capito bene. Un mutuo da quello che capisco, perché 200 ogni anno è un mutuo non estinto. Uno che fa il professore universitario, però fa anche il chiamiamolo così, il tastatore di vini o cose di questo. Non sono così convinta che possa avere dato questa commessa, a meno che perché va a Bressanone? Perché secondo me è tutto lì. Come mai a Bressanone, da Colonia, è vero che gira tanto, eccetera. Di che è morto sto qua? Queste sono cose che non si sanno, che sono ancora da scoprire. Da scoprire, forse qualcun altro, magari in un momento successivo, è fortunato a trovare un documento. Esatto. Perché spesso è appunto anche quello. Così io ad esempio ho trovato un documento del 1407, che è un documento molto interessante, nel quale lui ad esempio scrive al pontefice. Questi documenti in realtà sono conservati proprio presso biblioteche in Germania, e quindi diciamo è abbastanza fortuna anche trovarli. Sì, decisamente. Poi a Bressanone un po' di incendi ci sono stati di varia natura, tante quindi cose sono andate date perse anche negli archivi. Infatti. Così comunque partiamo da Cremona, cioè dall'area lombarda, e forse lì qualcosa si trova. Quindi quando andate a Cremona, a Brescia, eccetera, cercate di guardare, dico io, e documentate fotograficamente. Poi la dottoressa ha un sito e gliele mandate, dite, questo serve a qualcosa? Bene, vi ringrazio. Allora, bravo. Quando avrà scoperto la seconda puntata. Grazie ancora. Grazie a tutti.